applauso per Vinito. Un applauso per Vinito. E un profumo inebriante. Lascia aperta la porta. La fine dello spettacolo. La fine dello spettacolo. Abbiamo toccato il fondo. Tu non lo sai, tu non lo sai. Abbiamo toccato il fondo. Tu non lo sai, tu non lo sai. Potevamo morire. Siamo vivi. Un applauso infinito, un applauso infinito, un applauso infinito. Sangue che scorre nei nostri corpi. Abbiamo vinto, tu non lo sai, tu non lo sai. Abbiamo toccato il fondo. Lascia la porta aperta. Ho perso la memoria. Tu non lo sai.